and girl, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Cosa stai facendo? Cosa stai tentando di dire? Aspetta, mi giro, ecco. Ecco. Stavo parlando, hai capito? Ah, dal lato devi B. Girare. Ho capito. Tornati a chiedo asilo, un saluto da Kappa. È un saluto da Drago. Come la mela, no? Kappa si è girato come la mela e finalmente può proferire parola. Comunque così. Lunedì, se non mi invento queste cose qui, lunedì c'è da impiccarsi. Facciamo che si comincia da martedì. Ma come? Ma come si fa a cominciare da martedì? Poi mi diventi triste il martedì e quindi siamo al punto di prima. No, martedì ha un altro carattere, no? Rispetto a lunedì. Vabbè, sì, è nettamente più sopportabile il martedì. Vabbè, Drago, sì, ho capito, mi spiace, però oggi è lunedì e lunedì rimane, quindi di lunedì c'è la lezione di geopolitica. Ma da quando? Da adesso. Ma no, parliamo di geopolitica ma anche di grammatica italiana. Ecco, Tito. Vabbè, ma cosa c'entra la grammatica? Vabbè, cioè no, geopolitica fa rima forse. No, ma mi sono sbagliato, non è la grammatica che ci interessa ma il lessico. Ecco, Tito, stai calmo, però tu Drago insomma il lessico. Beh, bisogna spiegare ai bambini all'ascolto chi sta arrivando in Italia dalle coste africane, nordafricane. Torna a casa a lessico, in quel senso. In quel senso lì. Quelli che tornano, no, quelli che vengono qui, che scappano di casa, non credi che ci sia un po' di confusione per la definizione? No, anche in quello che hai detto tu c'è un po' di confusione. Eh sì, non si capisce più niente tra clandestini, profughi, immigrati, migranti. Ma vabbè, ma arrivano delle persone, no? Facessero prima. Cominciamo allora dal primo punto. Quelli che arrivano sono persone. E persone è un sostantivo femminile plurale che indica gli esseri umani. Quindi dire che dall'Africa stanno arrivando persone è assolutamente corretto. Solo che è troppo generico, capito? Perché le nostre autorità non basta catalogare queste persone solo come persone. Lo status di persona è valido per chiunque, no? Però poi ci sono altri status che via via definiscono meglio ogni individuo che prova a venire in Italia. Ed è lì che i nostri bambini politici litigano proprio come all'asilo. Clandestini! No, profughi! No, migranti! Che poi migranti cosa vuol dire? Senza emigranti. E non va bene, immigrati, emigranti, no, migranti. Migranti, perché ha meno connotazione. Eh sì, e quindi è più corretto. Sì, no? E fa venire anche un po' mal di testa, la migrania. Questo è molto divertente. Per quel che ne sappiamo, appena arrivano qua sono subito classificati come clandestini, quindi in teoria hanno già commesso un reato. L'avventura comincia bene. Poi chi vuole fa la domanda per essere invece classificato come profugo e immaginiamo che casino sarà dare un giudizio serio ed equilibrato su un argomento così, in assenza di carte, in assenza di documenti. O ci credi a quello che ti sta dicendo di essere il nipote di Mubarak o non ci credi. C'è chi ci crede comunque. Bambini, immaginate queste persone che scappano dai loro paesi come tanti pollicino o tanti pollicini che scappano di casa perché i genitori sono poveri e non possono mantenerli. Forse la cosa così vi sarà un po' più chiara. Infatti Pollicino, nel suo viaggio attraverso la foresta con i suoi fratelli, cerca rifugio dappertutto finché arrivano in casa di una coppia di giganti. Chi è? Sono Pollicine! Con i miei fratelli. Aspetta, lasciami finire. Aiuto. Appena arrivano in questa casa c'è solo la gigantessa, che ha una voce un po' mascolina ma è una femmina, la quale li considera profughi a tutti gli effetti e quindi li ospita con tutti i riguardi. Solo che poi arriva il marito, che è un gigante orco con un braccio che non può muoversi, la bocca tutta storta, in pratica è uno che ha appena avuto un ictus. Lui invece li considera clandestini e quindi vuole farli fuori. Fer animal! Però la fiaba lo sapete come va a finire. Il nostro profugo clandestino Pollicino mette a frutto la sua capacità imprenditoriale, apre 4-5 pizzerie e si arricchisce, potendo quindi poi tornare a casa dai genitori coi soldi, loro adesso possono mantenerlo, E allora, cari bambini politici italiani, non facciamo finire male la fiaba, E ora, bambini, ricreazione. Bentornati alla ricreazione del lunedì. Un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Oh, e adesso? E adesso cosa? Adesso c'è il consueto colloquio col bambino Alberto, no? Tipo il colloquio che faceva una volta Alain e il Can con il bambino Indro. La domenica mattina si mettevano lì il vecchio fascistone e l'ebreo che discutevano delle leggi razziali. Superavano le leggi razziali, giustamente. Però dai, Indro, il bambino Indro, Indro Montanelli. Vabbè, altri Indri Montanelli. No, Indri, però, poi... Sì, però Indri ce n'è solo uno. Di Indro, però io non me lo ricordo mai come un bambino. Cioè, da quando me lo ricordo, anche quando tantissimo tempo fa è sempre stato vecchio. Ma non è vero, cioè aveva il faccino da bambino e poi gli piaceva scherzare, no? Era un bambino anche lui. Anche lui, vabbè. Scherzare. E qui al bambino Alberto, anche a lui piace scherzare, vero? Mi piace da matti. In effetti, bambino Alberto Radius, sei sempre un po' troppo serioso, dai, per essere un bambino. Prendila un po' così alla leggera. Vorrei vedere voi. Ho il piede rotto. Ancora. Non posso correre. Non posso giocare. Ma che palle, piede a parte. Non ti ho mai visto correre e giocare. Comunque, anche col piede sano. Sei sempre ingrugnito, sei sempre da solo. Che guardi ingrugnito. Gli altri bambini con un misto, secondo me, di seccatura, ma anche un po' di invidia. Perché certo. No, è che sono uno spirito completativo. Sì, col tempo. Sì, contemplativo. Insomma, com'è che si dice? Contemplativo. Col tempo si impara. Contemplativo, forse vuoi dire. È più o meno, sarà quella roba lì. Cioè, io non sono uno che le cose le fa, io sono uno che le cose le guarda. Ho capito. E dopo che le ha guardate, cosa fa? E niente. Ma come niente, dai? No, niente, guardo e basta. Beh, ma dai, vedrai che non appena ti toglieranno il gesso, tornerai a giocare normalmente con i tuoi amici, tipo quei fratelli, com'è che si chiamano, Kappa? Chi? Luca e Elia. Ah, quello sì, quello con la tuta. Quello con la maglia dell'Inter, no? No, quelli no, sono due bulli. Ma no, dai. Dai, sono solo bambini difficili alla fine, scusa. Lo sai, no, che ci sono i bambini difficili più sfortunati di te? Sì, quindi... i bambini africani che muoiono di fame. Anche, però non solo, guarda che anche a due passi da te qui in Italia ci sono bambini che crescono in famiglie che non sono proprio il massimo, caro bambino Albertino. Padre in galera, madre immatura, cose così, gravi. Vabbè, ma no, se vogliono per caso fare cambio con la mia, vabbè, io ci sto. La tua cosa? La mia famiglia. Ma cosa dici? Non ma si dai. Possono fare queste cose. Magari, dai, ma non si può. Ma scusate, io una volta nella vita. Sì. Cioè, non posso provare cosa significa avere due genitori non comunisti. Cioè, due genitori normali, no? Vabbè, dai, bambino albo illustrato, lascia stare. Basta, Cosa? Albo illustrato è bello, è roba da bambini, no? E poi i tuoi genitori saranno pure comunisti, però sono persone responsabili. Giusto, almeno, bravo capo. Che si prendono cura di te, di tuo fratello, eccetera. Invece noi parliamo di famiglie, Albertuccia, in cui i genitori sono dei bambini mai cresciuti, capito? Sempre nei guai per il loro comportamento, le loro abitudini. Non so, ho letto questa settimana, famiglie numerose, bambino Albertuccia, dove i bambini crescono da soli, abbandonati a loro stessi. Sì, esatto. Proprio come i tuoi amici Luca e Elia. Ma piano, quei due lì non sono amici miei, quelli sono i miei nemici principali. Ti stiamo dicendo da due ore delle cose per convincerti che sono bambini come gli altri. Questi da qui, bene. Quando li vedo arrivare nel cortile, so già come va a finire. Vabbè, come va a finire? Magari giocate una volta, no? Ma no, questi due sono due prepotenti. Pensate che una volta mi hanno anche fatto mangiare la terra. Ma non ti avevano sputato? Infatti. Sì, quello prima. Ah. Poi, una volta, siccome io non volevo cedere... A cosa? A una loro prepotenza. Tipo... Bambino Alberto! Uè, la bicicletta è tua? Sì. Daccela. Tipo così, no? Dacci la tua bicicletta. Che adesso è nostra. Mia, di Luca e Lia. Ah, baciala nel senso... Baciala, salutala che non la vedi più. No, baciala, daccela! Io ho capito, baciala. Sì, baciala la bicicletta, ma lascia stare. E queste qui allora? Dico, no? Non c'è la bicicletta? Allora, mi hanno in due, buttato per terra. Mi hanno messo la scarpa sulla faccia. Ma no, ma come? Sì, sul campo da calcio, con la terra, no? Mi hanno fatto mangiare la terra. Ma no, ma povero bambino Alberto. Vabbè, dai, sono le cose che succedono. Tra noi bambini succedono ogni giorno, vero, mangiare la terra. Vabbè. E poi è da cose come queste che impari a stare al mondo, no? Ma, quindi viva Dio, Luca e Lia che ti fa mangiare la terra, che ti sputano in faccia. Cioè, e tu pensa che il paradosso... Che io sono assicurato contro i danni che faccio, no? Sì. Tu pensa. Invece io dovrei essere assicurato per i danni che subisco, no? Forse anche, sì. Ci va la casco. Anche da questo piccolo particolare. E potete capire che i miei genitori non capiscono niente. Beh, ma almeno ti assicurano. Infatti, sei assicurato, una cosa... Sì, allora, perché ogni anno, cioè ogni danno che faccio... A cose, persone, animali. Sì. È coperto da assicurazione. Però il piede rotto no, però. No, quello me lo sono rotto da solo, no? Giusto, ci va la casco, hai ragione. I danni che mi procuro da solo, quelli l'assicurazione non li copre. Quelli sono cavoli miei, eh! Questa è, d'altronde, questa qui è la legge delle polizze. Vabbè, sì, se vuoi ci mettiamo a parlare tutti quanti di polizze, così aderiamo in pieno al cliché di quelli che rubano lo stipendio. No? Anche se, cosa dici? Ma dai, in questo preciso istante, nei luoghi pubblici, nelle aziende italiane anche, i tre quarti dei salariati sta parlando di polizze, mutui, anche i cancelli automatici vanno fortissimo. Sai, Drago, vedi, mettere, cosa c'entra? Adesso è cancello automatico da installare. Era tranquillo, era andato di là. Ma basta adesso, cos'ha Tito? Ma che pale sto Tito! Parolacciometro, multa salatissima. Vabbè, ma c'è la polizza. Tutti i clandestini c'hanno il rastro in gola. Ho fumato troppo e non sono andato a scuola. Chiedo asilo.